Sto attraversando un momento difficile di riflessione per il tipo di attività che sto svolgendo, sia come presidente dell'Associazione Donne di Carta, sia come titolare di una casa editrice. Perché qui è in ballo il concetto stesso di cultura. Tante volte ho cercato di definire il valore che per me ha la cultura. Una cultura fatta di più discorsi, una cultura fatta del mondo reale che mi circonda, una cultura che non vede i libri come il prodotto di un narcisismo personale, ma appunto un ponte di relazione con gli altri, uno strumento di acquisizione di saperi e di conoscenza. C'è qualcosa che non mi quadra più. Non mi quadra più rispetto a come vedo poi che la macchina culturale in questa società miete in realtà vittime dell'ignoranza, vittime di un analfabetismo sempre più diffuso, vittime di un qualunquismo e forse anche di un'antipolitica che sembrerebbe la giusta, sana reazione viscerale contro una malpolitica, ma che comunque in realtà si dimostra un male civile. Dov'è il mio problema in realtà? È il fatto che mi trovo oggi a pensare paradossalmente che bisognerebbe veramente attuare una decrescita, non so se felice, ma sicuramente una decrescita radicale. Per esempio nel mondo mercantile del libro. Basta. Basta questa produzione massiccia di libri. Che nessun libraio, che si chiami ancora con giusto senso e giusta causa libraio, può effettivamente riuscire a vendere, perché non sono gadget, perché non sono oggetti di corredo, perché un buon libraio dovrebbe avere il tempo di leggere i libri che vengono prodotti, così come una macchina editoriale dovrebbe avere il tempo di leggere davvero dalla prima all'ultima riga i manoscritti indipendentemente dalla firma. E chiedersi, proprio perché dovrebbe avere un senso più allargato, una prospettiva d'insieme del mondo culturale, se quel libro lì veramente è una storia che ha senso pubblicare, se è un avanzamento nell'ambito del processo culturale che dovrebbe coinvolgere noi tutti. Mi viene da pensare a una decrescita, quindi come a una minor produzione, meno libri, più qualità. Almeno più attenzione. Più lettori invece, perché i lettori in realtà forti, deboli, sono categorie che non esprimono assolutamente nulla. Non esprimono le preferenze di lettura perché sono imposte dal mercato o dalle più o meno facilità di accesso al libro e dalla più o meno apparente pluridiversità dell'offerta. Più lettori consapevoli di che cosa significhi in realtà interpretare un messaggio scritto. Capire generi che non vengono letti con frequenza, magari per partito preso o per semplice ignoranza. Troppa narrativa in giro, troppe storie. Non che la saggistica di per sé come termine o la poesia indichino qualità, troppe poesie, troppi poeti. E troppi saggi che sono fondamentalmente dossier giornalistici o dossier ideologici. Ecco, manca il pensiero, questo è il problema. Un pensiero realmente critico, realmente attento a quello che ci circonda. Un pensiero che rimandi e rappresenti la rete di corrispondenze in cui viviamo. La famosa teoria della farfalla, il cui battito d'ali qui scatena altrove una tempesta, non è una cavolata, non è una battuta tratta dal mondo scientifico e usata a effetto nel mondo letterario-culturale. È veramente invece immaginare tutto quello che concerne la vita come qualcosa di collegato, come una rete fittissima di corrispondenze, i cui fili sottili a volte sono visibili, a volte no. E quindi significherebbe anche acquistare finalmente atteggiamenti e comportamenti consapevoli e responsabili. La politica culturale non è cosa diversa e distinta dalla politica tout court. Ogni uomo, tendendo l'essere umano, quindi ogni uomo e ogni donna, in quanto cittadini, sono animali politici. L'unica frase che salvo della famosa lettera agli ateniesi di Pericle, che in altri punti forse non mi convince così tanto, è quando dice che ad Atene un uomo che non fa politica non è considerato innocuo, ma inutile. Ecco, forse è proprio questa parola che oggi in qualche modo mi affligge. L'inutilità. L'inutilità della produzione libraria, l'inutilità della lettura quando è solo consumo superficiale, l'inutilità anche del mio essere un editore in più, come se la mia presunzione di coprire una zona mancante e di superare quella linea d'ombra tra l'editoria di massa e l'editoria appunto di nicchia fossero un compito che io poi sia veramente in grado di poter mantenere. No, non è così. Essere il talent scout di scritture importanti è difficile, quando l'importanza ha perso un po' il suo spessore etico. E forse non mantenere la promessa di poter poi conservare per questi libri nuovi una durata e una diffusione necessaria, quindi raggiungimento di più lettori, non fa di me un vero editore. È mia la colpa? È colpa del mercato? Entrambe le cose. E se facendo appunto la presidente di un'associazione culturale che vuole promuovere la lettura, intendendola come uno strumento interpretativo della realtà, cercando sinergie tra linguaggi espressivi diversi, dalla musica al teatro, alla letteratura, alla scienza, in realtà io non stessi facendo altro che un servizio che mantiene uno status quo. In questo momento è veramente un problema. Io mi accorgo che c'è un abbassamento di capacità di comprensione e dall'altra parte c'è una povertà negli strumenti di interpretazione che va di pari passo con una sorta di acquiescenza delle coscienze. Tutti si lamentano, ma forse mai della cosa giusta. Quando parlavo di analfabetismo diffuso, parlavo soprattutto di questa mancanza di capacità critica. Quando molti non riescono a leggere tra le righe l'ironia o il paradosso di un testo che in realtà cerca di sbeffeggiare l'avversario, ponendo il problema del patrocinio, per esempio, di un evento smaccatamente ideologico, come un atto quasi incostituzionale, ingiusto profondamente, se operato da un primo cittadino, e mi riferisco al caso del patrocinio di Roma Capitale della Marcia per la Vita, e molte persone appunto non capiscono l'ironia con cui io scrivo al sindaco chiedendo allora anche il patrocinio per la marcia contro la violenza sessuale, la violenza, il femminicidio continuo ormai che i consorzi urbani e le famiglie producono. La mia perplessità affonda proprio nel fatto che l'ironia è un gioco sottile, il paradosso è un modo di contrapporre idee e concetti in maniera antitetica, cioè dire una cosa per dirne un'altra. E che questo, come dire, invece quasi livello di tentativo di comprensione alla lettera delle cose sia davvero una malattia diffusa, che dà sfogo poi alla violenza delle proprie opinioni, a rivendicare, che so, appunto, quasi una sorta di meritocrazia in chi fa meglio le cose o in chi le cose le dice, mentre altri tutti i giorni, quotidianamente, si sporcano le mani. Voglio dire che il problema reale è pedagogico e che un'educazione al vivere civile dovrebbe essere forse l'unica materia da insegnare oggi nelle scuole. Mi chiedevo che senso avrebbe infatti ancora studiare la storia intesa come date di guerre, di paci o di famiglie, di dinastie che si susseguono, senza avere la possibilità di comprendere realmente una filosofia della storia, quella che è alla base di ciò che poi viene considerato ricordabile da non dimenticare e ciò che invece non lo è. Una filosofia della storia che spieghi il perché qualcosa che accade abbia comunque un valore diverso nel regime della dimenticanza o dell'oblio o nel regime appunto della memoria. E come dei fatti di guerra e di pace siano sempre non date, ma eventi sociali complessi, Il chiedersi come si mangiava, il chiedersi come ci si vestiva o come si viaggiava e come venivano trattate uomini, donne e bambini. Questa è la storia. Così la letteratura a che serve effettivamente leggere e capire più o meno bene quanto ha scritto Petrarca o Carducci o Montale o cos'era il futurismo? Se non c'è dietro una visione filosofica di ciò che è la letteratura, o una visione etica dell'arte, o una visione semplicemente più allargata, più estesa, che faccia comprendere come ogni fatto artistico, letterario, nasca in un'epoca storica di relazioni sociali, di vissuti personali, di traumi e di superamenti e di astuzie. Una filosofia della scienza sarebbe necessaria per far capire come l'uso così diffuso della tecnologia, che è diventata quasi il balsamo per superare il digital divider, no? La barriera geografica, culturale, le distanze. E come invece proprio una filosofia della tecnica possa far capire come questa presunzione di legare tecnologia e progresso sia solo un'ideologia e che i miglioramenti tecnici nascono nella mente delle persone e non sono spesso coincidenti invece con gli oggetti e con gli strumenti. Una filosofia della scienza ci farebbe capire il perché c'è tanta gente ancora oggi che crede vera la favola della vivisezione come una pratica che serve all'uomo. Una filosofia della scienza farebbe capire di più il senso della vita senza se e senza ma, che è un diritto per ogni creatura di questo pianeta, dai criceti alle foreste ai mari, dall'uomo alla donna, al bambino al vecchio, un reale diritto alla vita e alla qualità della vita. Ecco, sono troppi i pensieri e in questi momenti così credo che essere presidente di un'associazione che promuove la cultura, la lettura, che cerca di fare rete con altri soggetti che non necessariamente devono occuparsi di letteratura o di arte, ma possono occuparsi appunto di disabili, di donne violentate, di gente senza tetto, di animali randagi. Questa necessità di ricreare quella corrispondenza che io sento come qualità della vita, anche a livello culturale, e fare di tutto questo un'azione politica vera, credo che siamo molto lontani. Credo che tutto questo ci sia da qualche parte nella visione, nella visionarietà dell'associazione, e che abbia motivato anche l'azione, diciamo, libraria che io mi ponevo come casa editrice. Però è come se la strada scelta non sia ancora quella giusta. È come se la rivoluzione vera che possa portare a un pensiero critico e consapevole sia oggi il primo obiettivo di un reale processo di alfabetizzazione. L'interesse suscitato dal laboratorio sperimentale, per esempio, che ho condotto sull'Incipit come forma di apprendimento di alcuni elementi della scrittura creativa, utilizzando le persone libro come pagine aperte, dei libri che testimoniavano direttamente tanti incipit diversi. Ecco, quell'entusiasmo, quella voglia di sapere, quella voglia di conoscere, non erano legati alla letteratura e ai libri, erano legati proprio a questo bisogno di condivisione, di capire qualcosa, di avere uno strumento in mano per interpretare meglio le cose che ci circondano. E tra le cose che ci circondano ci sono anche i libri. Capire meglio, per esempio, il perché scegliamo certe storie e non altre. Capire meglio perché certe parole ci risuonano dentro e altre invece non hanno alcun suono. Capire la nostalgia. Perché in un mondo laico la nostalgia è un problema politico e culturale che va affrontato e deve diventare una creazione, uno strumento di relazione. Ecco, oggi io sto riflettendo su questo. Sto riflettendo su un mondo in crisi e non sto rispondendo con frasi fatte o con slogan positivi. Sto rispondendo mettendomi in crisi per essere all'altezza. Per concludere questo intervento un po' strano di oggi, vorrei rifarmi a una trasmissione televisiva sulla 7 che condotta da Fazio e da Saviano, che si intitola Quello che non ho e chiede alla gente di inviare parole che in qualche modo testimonino, rappresentino questa mancanza. Ecco, io vorrei dire una parola, vorrei scegliere una parola che non rappresenta una mancanza, ma in realtà denuncia uno status di fatto piuttosto diffuso e che oggi mi rende particolarmente triste, vorrei dire, e disarmata. La parola ignoranza, che è una condizione, è una condizione di carenza di desideri, è una condizione che può diventare cronica e permanente, di voluta mancanza di conoscenza o di voluta mancanza di una conoscenza sufficiente a voler comprendere realmente le cose. E può indicare uno scostamento che diventa poi uno scollamento tra la realtà e la percezione che si vuole avere di questa realtà e che diventa una convinzione. Nell'ignoranza non si cresce, nell'ignoranza si sopravvive. E vederla come una condizione sempre più diffusa e sempre più presuntuosamente sbandierata, come una forma di benessere, disarma veramente ogni tentativo di fare della conoscenza un valore condiviso, un bene da tutelare e una salvezza per tutte le persone. L'analfabetismo poggia sull'ignoranza. L'analfabetismo è la condizione per cui questa ignoranza può continuare a mietere le sue vittime. Bisogna alzare la testa, bisogna guardare oltre il recinto e la siepe che abbiamo messo a difendere quell'orto conclusus che è la nostra vita, il nostro benessere individuale, i nostri interessi privati. Vorrei un mondo più gentile, oggi più che mai, dove in gentilezza vedo la capacità di accoglienza, la disponibilità all'altro, le forme possibili di una solidarietà che non può essere pura ideologia, ma è la solidarietà di chi sa di far parte di una rete molto più vasta di relazioni, con tutto ciò che lo circonda. Partire da qui, da questa filosofia globale del mondo, non renderà la globalizzazione una perdita delle identità e non renderà lo sviluppo e il progresso come una sorta di catena di lavori forzati, ma ci renderà più liberi di star bene e di capire cosa significhi questo star bene. Oggi è quello che io, come presidente e come editore, mi propongo. Una ricerca dello star bene che sia al servizio dello star bene degli altri. Credo che la cultura sia tutto questo, credo che la conoscenza sia una medicina. I modi con cui questa conoscenza devono essere trasmessi, diffusi e fatti circolare, non ho ancora capito quali siano veramente. Non so ancora quali siano. Li sto cercando. E in questa ricerca spero di trovare un senso a tutto quello che noi facciamo.